Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, poi il programma sarà in diretta anche se in versione che noi chiamiamo estiva, ma di estate c'è poco, il lunedì 7 dicembre, martedì invece avremo la programmazione speciale, come ricordava il nostro promo sul Giubileo e sull'apertura del Giubileo, e poi martedì, mercoledì scusatemi, il ritorno alla programmazione regolare. Dicevo, oggi la giornata si connota da un lato per il rapporto del Censis, il 49esimo rapporto di carattere socio-economico-demografico, non è l'Istat che guarda i numeri, il Censis guarda alle dinamiche, quelle che i sociologi chiamano le dinamiche psicografiche, quindi anche quelle di superficie, come cambiano i nostri modi di comportare, di consumare anche a livello superficiale. Rapporto di quest'anno in cui si parla di un letargo collettivo, ma dove emerge l'inventiva, ne parleremo con il presidente del Censis De Rita. Per quello che riguarda invece oggi, la puntata di oggi, ricordo che il venerdì abbiamo anche la poco invidiabile classifica di Focus Economia sui 5 sprechi della pubblica amministrazione, riguarderanno in qualche modo anche la cronaca, visto che ascolteremo anche il motivo per cui in una Roma dove sostanzialmente paralizzata dalle targhe alterne e dagli scioperi si sono pure bloccati i lavori della metropolitana C, lamentano infatti i mancati pagamenti, il contraente lamenta mancati pagamenti per oltre 200 milioni di euro. La nostra classifica si occuperà dei trasporti anche a Roma. Ma per quello che riguarda le notizie di carattere più generale e oltre alla startup, avremo anche un approfondimento su quello che sta capitando, nulla di drammatico, ma insomma il movimento che sta capitando sulle materie prime e in particolar modo sul petrolio. Che cosa è successo? Il petrolio è crollato sotto i $40 al barile, a $39,6 al barile, dopo le indiscrezioni di una riunione dell'OPEC, i principali paesi produttori. Secondo le voci, le prime fonti, l'OPEC avrebbe fissato un tetto di produzione sì in aumento, ma evidentemente non a sufficienza, secondo il mercato, a 31 milioni e mezzo di barili al giorno. Questo inizialmente aveva mantenuto il prezzo del petrolio in calo, ma non troppo. Poi è iniziato veramente a calare. Perché si sta profilando un mantenimento dello status quo e quindi diciamo un mantenimento dei 30 milioni di barili. Petrolio in calo, dicevo, borse oggi invariate a Parigi e Francoforte, meno 0,1 Parigi, invariata Francoforte, Londra meno 0,50%, il Dow Jones più 1,45%, Milano guadagna qualcosa, lo 0,20%, nello specifico UX Net A Porter più 3%, come Unipol il 2% lo guadagna A2A, l'1,90% Finmeccanica e anche il Banco Popolare, l'1,70% rialzo di Mediaset e CNH Industrial, ma anche Unipol Sai. E poi Intesa San Paolo meno 1,34%. Tra i titoli che invece sono negativi, Monte dei Paschi meno 2,5%, Tenaris meno 1,90%, Saipem meno 1,52%. Eni perde l'1,30%, Ferragamo lo 0,80% come Anima Holding. Invece sul fronte opposto, non ho citato ma lo cito volentieri, Intesa San Paolo più 1,30% e Telecom Italia più 1,1% come TOD. Altre notizie in breve, positiva, più che positiva, l'andamento, il dato sull'economia americana per quello che riguarda i posti di lavoro, un dato cui guarda molto anche la banca centrale americana, la Federal Reserve, un dato migliore delle attese, dicevo, 210.000 posti di lavoro si sono creati a novembre contro 200.000 attesi, il tasso di disoccupazione resta fermo al 5% e quindi ormai tutti scommettono che la Federal Reserve alzerà i tassi di interesse. La Casa Bianca dice sì, resta da fare un lavoro. Intanto gli Stati Uniti sono tornati ampiamente ai livelli di disoccupazione precedenti la crisi. La Germania ha avuto, dopo 3 mesi di calo, un aumento invece degli ordinativi all'industria a ottobre, più 1,8%. Andiamo avanti per quello che riguarda le notizie dell'Italia. Dopo 3 anni di profonda recessione, la crescita e l'occupazione stanno ritornando, così il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, il quale ha ricordato che le privatizzazioni daranno maggiore trasparenza, maggiore competitività e una migliore corporate governance. L'Italia diventa sempre più attraente per gli investitori, ha aggiunto Padoan. Ci sarà anche la quotazione di Ferrovie dello Stato. Sul fronte europeo, il completamento dell'unione bancaria continua a essere una strategia chiave. Stiamo affrontando, ha aggiunto, la sfida di completare il terzo livello dell'unione bancaria, specialmente della garanzia dei depositi, che continua in qualche modo a essere un tema controverso. Per quello che riguarda la compensazione, o meglio l'aiuto a tutti i correntisti fregati dalle 4 banche salvate, ne abbiamo parlato ieri a lungo, Padoan continua a essere molto prudente. Ha detto: sono contrario a pensare che la nuova legge abbia portato criticità alle banche popolari. Il governo sta valutando un sostegno a fasce deboli dei risparmiatori, ma non una compensazione del credito. Spunta però in realtà un fondo di solidarietà per salvaguardare i piccoli risparmiatori e gli obbligazionisti subordinati rimasti, che sono fregati più che coinvolti dall'operazione sulle 4 banche. Da quanto si apprende, si tratterebbe di inserire questo fondo nella legge di stabilità e permetterebbe di rimborsare perdite stimate in 780 milioni di euro, ma rimborsarne tra i 300 e i 500 milioni di euro. Ancora il PD invece propone di dotare il fondo di solidarietà per i risparmiatori colpiti dalle banche di 120 milioni di euro, di cui 80 a carico del sistema bancario. La Consob ha avviato verifiche, adesso le verifiche, per capire se i titoli delle banche, il cui valore è stato azzerato, sono stati venduti a clienti in grado di comprendere i rischi. C'è un profilo della MiFID di adeguatezza, dice il presidente Giuseppe Vegas. Finché li vendevano, ci chiediamo con massimo rispetto per la Consob dove fosse la Consob. Vabbè, andiamo avanti, che oggi non posso rifare la puntata sulle 4 banche e i risparmiatori. Per quello che riguarda il trasporto aereo, l'Istat registra una ripresa nel 2014 dei passeggeri, più 4,7%. E poi una notizia che molti di voi ci hanno posto come domanda in realtà: ma quanto pesa sul PIL l'aver inserito nel calcolo del PIL, anche se a perimetro invariato, prostituzione e droga e contrabbando? Per l'Istat vale circa 1 punto percentuale del PIL, 16 miliardi di euro. È interessante, l'abbiamo già spiegato, questa cosa non faceva crescere il PIL di 1 punto percentuale perché veniva spalmata come parametro, però adesso possiamo vedere le variazioni. Beh, è interessante notare che la spesa per droga e prostituzione, secondo l'Istat, quindi la spesa per delle famiglie per prodotti e servizi illegali, io vorrei sapere come si misurano le spese per prodotti illegali, però è pari a 18,4 miliardi di euro, in crescita del 2% rispetto all'anno precedente, nello specifico 14 miliardi per la droga, 4 miliardi per la prostituzione e 0,4 miliardi per sigarette di contrabbando. La dinamica in generale si sottolinea influenzata dai consumi di sostanze stupefacenti, che segnano un incremento. E da lì poi il ragionamento di chi vorrebbe legalizzare la prostituzione per rendere più sicuro, diciamo, più sicura la prostituzione, ma anche per avere delle prostitute che pagano le tasse, lo dico in maniera molto tranquilla, in molti paesi è così, sono 4 miliardi stimati dall'Istat. E anche c'è chi vorrebbe legalizzare, a fronte poi di un pagamento delle tasse come per i tabacchi, anche le droghe leggere. E l'Istat non distingue però tra droga leggera e droghe pesanti in questa stima di 14 miliardi di euro. Del rapporto del Censis parleremo dopo, però su tanti aspetti, perché si parla anche di come cambiano look le città italiane, però su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Il Sole 24 Ore, oggi a firma del vice direttore Alessandro Plateroti. Ricordo che sono registrati e trasmessi anche per Radio Dimensione Suono. Promuovi il tuo business con i servizi di Nuvola Store di Team Impresa Semplice. Con contatti Power e Vetrina Power dai più valore ai tuoi clienti e alla tua attività sul web. Info su nuvolastore.it. Vi presenta i 100 secondi di Radio 24, Il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Italia in letargo, riparte a piccoli gruppi. Questo ci dice il Censis nella nuova fotografia della società italiana, una fotografia per così dire un po' in bianco e nero più che a colori, perché emerge una realtà non troppo felice, ma anche con degli spunti individuali che danno coraggio. Secondo il Censis, in sostanza, l'Italia, se riparte come sta ripartendo, purtroppo lentamente, lo si deve non a un approccio di sistema e a un miglioramento del clima complessivo del vivere in Italia, ma per la spinta individuale, un insieme di gesti, di singoli, di passi in più dall'impresa all'impiegato al dirigente fino alla famiglia, non soltanto per superare gli scogli e i pericoli della crisi, ma soprattutto per dare un futuro migliore ai figli. Insomma, più che un'Italia siamo ancora un'Italietta che sta cercando di ripartire contando sempre meno sull'aiuto dello Stato, dei partiti e sempre di più su se stessa e sulle proprie forze. È un quadro preoccupante? Speriamo di no, soprattutto perché l'Italia in più occasioni ha dimostrato che un insieme di spinte individuali dà una grande scossa al sistema, e anche stavolta è la speranza di tutti. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. La classifica della settimana. In realtà la classifica dei 5 sprechi delle amministrazioni pubbliche locali e centrali di questo paese oggi parte con un'intervista, nel senso che vorrei collegarmi, perché siccome parleremo anche della metropolitana di Roma, cioè dove 5 treni nuovi restano fermi da mesi, vorrei collegarmi a quanto sta capitando oggi a Roma con la massima solidarietà a tutti i romani. Nel senso che il prefetto Tronca ha avuto la geniale idea di mettere le targhe a tenne quando c'è uno sciopero in corso. Ci raccontano i colleghi romani che la situazione sia particolarmente critica, con i varchi nemmeno aperti. Va bene, prove tecniche di Giubileo, immagino. Poi ti chiedi i terroristi dell'ISIS, con questa gestione, cioè è un modo per, buttiamola a ridere, mettiamola così, per depistare anche l'ISIS. Sarebbe bloccata sul raccordo anulare, non riuscirebbe mai a rifacere, ma lasciamo stare. Comunque, oltre a questo, il consiglio di amministrazione della società Metro C ha deciso di sospendere i lavori di completamento della linea C della metropolitana di Roma perché gli mancano pagamenti per 200 milioni di euro. Non entra neanche in classifica. Vi faccio solo ascoltare che cosa ha raccontato il presidente della società Metro C, Franco Cristini, al nostro Simone Spezia nel corso di Effetto Giorno. Dall'inizio di questo anno i pagamenti sono andati sempre più scemando finché da marzo sono cessati completamente. Motivi, fino a qualche tempo fa, considerando anche diciamo la situazione generale della finanza pubblica, abbiamo sempre ritenuto fossero da attribuirsi a sostanziale mancanza di risorse. E i soci di questa società, di questo general contractor, hanno fatto fronte con risorse proprie a una situazione che in qualche modo uno può anche arrivare, come dire, a capire. Sì. Il problema è che abbiamo recentemente scoperto un avviso pubblico, un avviso di gara, fatto da questa società Roma Metropolitana, ripeto, sì, il nostro committente, il quale fa un avviso alle banche dicendo: io ho su un conto, sui miei conti 287 milioni, cioè una cifra superiore a quello che ci devono, sì, e chiedo alle banche quanto mi danno di interessi, di sapere, fare un confronto competitivo perché li voglio impiegare. E voi dite giustamente: beh, insomma, se questi 287 milioni di euro ce li hai in banca, li devi dare a noi, cioè ci devi pagare. Questo sì, la semplifico molto. In estrema sintesi è questo. Oh, non lo dico perché a fronte di questo, al quinto posto della nostra classifica, oggi mettiamo proprio la metropolitana di Roma. Dunque, disagi e ritardi, ridotto numero di treni circolanti rispetto al programmato, ha spiegato l'ATAC, su cui vertice abbiamo fatto intere puntate, intere classifiche. Comunque, c'è un ridotto numero di treni circolanti rispetto al programmato. In realtà la cosa che fa più incavolare è che questi treni ci sono 5 convogli nuovi pronti a partire da febbraio scorso, acquistati al prezzo di 7 milioni e 200 mila euro l'uno, quindi sostanzialmente 36 milioni di euro, che stanno inspiegabilmente marcendo nel deposito della Magliana. Fanno parte di un pacchetto di 18 convogli che il Campidoglio ha comprato dalla società spagnola CAF per un totale di 150 milioni di euro. Sono comprensivi di ricambi, spese di gestione, spese per il collaudo, IVA, tutto quanto. Il contratto prevedeva la consegna dei primi 15 treni entro il gennaio del 2015 e gli ultimi 3 per fine febbraio. Per i primi 12 convogli l'immissione in servizio ha richiesto un mese e mezzo a treno, tra assemblaggio delle carrozze, rodaggio e collaudo. Poi a un certo punto nessuno ha più rispettato la tabella di marcia, solo recentemente si è riusciti a trascinare sui binari un 13° treno. 5 treni sono fermi, aspettano una cosa fondamentale, che un macchinista salga a bordo e faccia percorrere ai convogli i 1500 km richiesti dalla legge per il collaudo senza passeggeri a bordo. Non si capisce perché non lo facciano, però l'ATAC comunica che c'è un ridotto numero di treni. Anche perché, voglio dire, questi 5 treni nuovi sarebbero fondamentali, visto che il parco all'ATAC hanno un buco enorme, ma l'hanno fatto in altri modi, non investendo. Hanno fatto con le tangenti, ci sono inchieste in corso, l'hanno fatto pagando eccessivamente alcune commesse e consulenze, perché se uno guarda il parco circolante non si giustifica il buco dell'ATAC. Circolano ancora 20 dei 31 convogli comprati nel 1986, cioè da 4 anni l'Italia aveva vinto i mondiali dell'82, però quelli dell'Ansaldo Breda hanno 2 milioni di chilometri. Complimenti all'Ansaldo Breda, 2 milioni di chilometri, e da tempo dovevano andare perché vengono in pensione. Poi ci sono 8 treni CAF, sempre sto CAF, comprati sotto l'amministrazione Veltroni. Anche questi facevano parte di un pacchetto di 53 convogli che hanno smesso, cioè, che sono arrivati entro il 2009. 39 sono stati destinati alla linea A, 8 alla linea B e 6 alla Roma Lido, con un piccolo dettaglio: i CAF della metropolitana non erano compatibili con la ferrovia di superficie. E quindi c'è un piccolo problema. Anche un bambino che gioca con i trenini sa che se il treno non va sui binari, o perché è troppo larga lo scartamento, perché è troppo stretto lo scartamento, è un piccolo problema. Gli 8 treni CAF della precedente fornitura hanno già superato 1 milione di chilometri. E che cosa fare dei treni da 86 in poi? Boh, non si capisce perché un nuovo convoglio costa 7.200.000 euro. La revisione di un singolo convoglio ne costa 4.500.000. Forse ti conviene comprare i nuovi, ma il dato di fatto è che 5 convogli nuovi sono acquistati fermi lì, e perché non si riesce a fare il collaudo. Complimenti anche all'ATAC. Adesso vado in pubblicità e meteo, perché poi ho due notizie che riguardano, ahimè, il comune di Palermo, una terza che riguarda i regali natalizi della regione Campania, e poi chiudiamo in bellezza occupandoci in qualche modo dei politici che vanno in caserma, ma non come alcuni italiani spererebbero. Tempo in diretta. Previsioni a cura di Trebi Meteo. Una buona serata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo e gli ascoltatori di Radio 24. Ancora alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia, ma purtroppo è proprio l'alta pressione a favorire la formazione di nebbie, foschie dense e nubi basse in pianura padana, dove nel weekend il cielo purtroppo rimarrà grigio fino ad arrivare anche alle coste dell'Alto Adriatico, e molte nubi insisteranno anche sul versante tirrenico, dal Levante Ligure fino alla Campania. Nel resto dell'Italia non mancherà, è vero, qualche nuvola di passaggio, ma la situazione sarà un po' migliore, con anche delle parziali schiarite, in alcuni casi piuttosto ampie, soprattutto Alpi, Prealpi e lungo la dorsale appenninica. E dove splende il sole, temperature miti, nel weekend potremo ancora toccare e forse superare i 15 gradi, nelle zone nebbiose invece temperature decisamente più contenute. Con questo è tutto, ma per rimanere aggiornati potete sempre scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Oh, andiamo al quarto posto, visto che parlavamo della metropolitana di Roma. Il quarto posto oggi se lo becca Palermo, nel senso che il comune, attenzione, il comune di Palermo, grazie a uno studio condotto dal Movimento 5 Stelle, che ringraziamo, dove torniamo nell'annoso, io oggi non ho voglia di, siamo sotto Natale, non posso incavolarmi, mi hanno chiesto di stare calmo, c'è il ponte di Sant'Ambrogio, dell'Immacolata, e va bene, non voglio rovinare ai 6 milioni italiani in spostamento tutto il weekend, quindi cercherò di dare queste notizie con un tono quasi britannico, se ci riesco. Allora, torniamo sul tema annoso dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali in questo cavolo di paese, e in alcuni comuni di questo cavolo di paese. Perché? Perché a Palermo, come ha studiato appunto il Movimento 5 Stelle, siccome c'è un gettone di presenza che è il più ricco d'Italia, cioè se tu vai alla seduta del Consiglio Comunale il gettone vale 156 euro, faccio notare che sono 27 euro più di Roma, 40 euro più di Milano, una volta e mezzo quello di Genova, ma lì si sa che sono attenti ai soldi. Quanto ha speso il Comune di Palermo nel 2013 per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali? La modica cifra di quasi 1.800.000 euro, che sono bruscolini per un comune come quello di Palermo, ci mancherebbe. Ora, al di là di questo, che uno potrebbe dire, va bene, fai il consigliere comunale, hai anche il tuo stipendio, il gettone di presenza magari lo riduciamo, vediamo come sono messe le casse del comune e in base a quello, no, figurati. Ma al di là di questo, nonostante non tutte le 7 commissioni permanenti abbiano risposto alla richiesta di accesso agli atti fatta dai deputati regionali dei 5 Stelle, è venuto fuori che chi ha risposto, cioè guardando il cartellino timbrato, diciamo così, altro che i vigili di Sanremo. Allora, cito testualmente, c'è un via vai di consiglieri e di presenze lampo anche di un solo minuto se si deve prestare fede all'orario indicato nei resoconti, con tanto di timbro e firme in calce di segretario, presidente e in alcuni casi vicepresidente. Ma voi capite l'efficacia di certi consiglieri comunali, le hic et nunc, decisioni prese come Churchill, come i grandi statisti? Perché lo dico? Perché il 10 ottobre 2013, per esempio, in prima commissione al Comune di Palermo, nel corso di una seduta lampo che fa ridere, diciamo, la guerra lampo di 15 minuti di seduta, cioè 15 minuti, Beh, un componente è arrivato un minuto prima della fine, cioè è arrivato al 14° minuto, ha timbrato, ha preso 156 euro anche quel giorno. E grazie e arrivederci. Cesarini in confronto era uno che, capito, segnava all'inizio, all'ultimo minuto. Dopodiché ce n'è una invece, un consigliere che il 16 dicembre 2013 riesce a stare, sforzandosi, due minuti dalle 10 alle 10.02, prende 150. È noto che un apporto incredibile questo. È vero che uno può dichiarare guerra in 30 secondi, però in due minuti. Poi toccata e fuga di consiglieri un po' più strutturati, 5 minuti per 20 volte. Ci sono dei consiglieri singoli che per 20 volte nella prima commissione sono rimasti 5 minuti. E poi nella terza commissione ci sono 28 presenze da 10 minuti a 156 euro a presenza, 55 presenze da 15 minuti. E in alcuni casi, per ovviare a discrepanze, si è deciso di dare sedute lampo all'intera commissione. Delle volte si è riunita per 10 minuti. Buongiorno, appello, grazie, arrivederci. Altre volte per 15 minuti, altre volte per 20 minuti. In alcuni casi, oggettivamente, si è dovuta riunire per 30 minuti e va tutta la nostra solidarietà e anche il premio Stakhanov che veniva dato nell'Unione Sovietica di Stalin. Poi ci sono casi anche, diciamo, interessanti, antropologici quasi. C'è un consigliere che arriva arriva in commissione, no, questo qua è un mito, arriva in commissione, assume la presidenza, bene, assume la presidenza e chiude, non sto scherzando, assume la presidenza e chiude, come se uno andasse a un convegno e dice buongiorno, benvenuti a tutti, grazie, arrivederci, e fine. Assume la presidenza e nello stesso minuto della seduta la chiude, in quanto presidente ne ha la facoltà. Gettone anche lui. Il 16 aprile la settima commissione del Comune di Palermo. Dicevo, 1.800.000 euro diviso ai 50 inquilini. La stragrande maggioranza, non avevamo dubbi, dei consiglieri, grazie a queste toccate fuga, sute lampo, sveltine comunali, è riuscito a prendere il massimo possibile, 36.000 euro lordi, che in un anno sono quasi un secondo stipendio per aver fatto poco, vista la durata delle sedute. E in 20 ci sono andati molto vicino, tra i 33 e i 35 mila euro lordi, un po' di compassione. E poi 79 mila euro come massimo dei gettoni li ha presi anche il presidente del Consiglio Comunale, Salvatore Orlando, sostanzialmente si parla sempre di cifre lorde, precisano i consiglieri, va bene, va bene. Allora, nel frattempo voi direte, beh dai, consiglieri che si muovono così rapidamente, toccate fuga, gestiscono, ma mica tanto, perché il Comune di Palermo ha difficoltà a capire che cosa fanno nel frattempo le sue partecipate. Faccio un esempio, c'è una relazione del consigliere Filippo Chipinti, in cui si dice sostanzialmente il comune non riesce a capire esattamente la gestione finanziaria di molte partecipate che hanno un contratto di servizio con il comune di Palermo stesso, gli forniscono un servizio. Per esempio, Occhipinti scrive, emerge l'incapacità del comune di avere una visione complessiva delle partecipate. Tutte chiudono in positivo, questa è una cosa bellissima, tutte le partecipate del comune di Palermo chiudono in positivo. Perché? Perché scaricano tutto sul comune. Faccio un esempio. L'AMAT, azienda municipalizzata autotrasporti del Comune di Palermo, che si prepara ad inglobare tra i suoi compiti anche la gestione del servizio tram, chiude i suoi conti con un utile di 76.000 euro. E dice, beh, insomma, dai, non è tanto, ma buono. Aspetta. Perché sono spariti gli accantonamenti da rischio per contenzioso, quindi non dovrebbe esserci nessun contenzioso per l'AMAT. E sono spariti anche altri accantonamenti per rischi di carattere legale, che nel 2013... ammontavano a 3 milioni di euro. Cioè nel 2013 tu stimavi di mettere da parte 3 milioni di euro nel caso di contenziosi, cause legali fatti da dipendenti oppure da cittadini che usufruiscono del servizio. Sei così sicuro del servizio che nel 2014 non ci sono più accantonamenti, va bene, siamo capaci tutti. Poi citano anche l'AMAT, è un mito, perché dice ci sono 800.000 euro in meno di interessi bancari. Ah bene, avete rinegoziato il prestito con le banche. No, l'operazione viene fatta sulle spalle del comune, che a quel punto si è indebitato per i prossimi 29 anni per un totale da pagare di 9 milioni di euro di crediti. Cioè è un po' l'AMAT scarica sul comune, chiude, inutile l'AMAT, peggiora il bilancio del comune di Palermo, di cui l'AMAT è controllata al 100%. È una gran partita di giro. Anche la RAP, la Risorse Ambiente Palermo, non può chiudere mai in perdita. Perché? Perché l'azienda autocertifica il costo del servizio, così come previsto dal contratto di servizio e anche dalla legge. Quando arriva il momento di fare i conti, la RAP calcola la differenza tra quanto è costato il suo operato e quanto aveva a disposizione. Quello che manca lo inserisce il comune e tu chiudi in pareggio. Altro buco nel bilancio del comune di Palermo di 6.600.000 euro. Non c'è nessuna penale nel caso non venga svolta la regolare manutenzione delle strade, e quindi la RAP ha una somma da destinare per la manutenzione delle strade di 18 milioni di euro che non può utilizzare. Questa è una storia bellissima, cioè la RAP non può riparare le buche della città di Palermo per un motivo semplice, non perché non voglia, i soldi li ha. Che cosa manca? Mancano i mezzi, cioè non ha i mezzi adeguati per riparare le buche. Recentemente ha acquistato 9 autocompattatori che però ha scoperto di non essere adatti ai cassonetti della città. Allora, sentite una cosa, se uno acquista 9 autocompattatori a Palermo e si rende conto che non sono adatti ai cassonetti della città, questo, da un conduttore che vuole essere inglese, si chiama mafia, ok? Si chiama mafia, si chiama in altri modi. Anche la MG, azienda municipale del gas, la relazione sempre di Occhipinti, ha chiuso il suo anno con un utile di 137.000 euro. Dice, ah bene, un'altra municipalizzata del comune di Palermo che chiude in utile. Attenzione, grazie a proventi straordinari al contenzioso con la Saipem, che rappresenta una tantum. L'azienda ha debiti bancari per sopperire ai ritardi del comune, e i debiti bancari sono 15.700.000 e 7 milioni ha di debito verso il comune, cioè ha il doppio di debiti bancari rispetto a quelli verso il comune. Occhipinti chiude anche con Palermo Ambiente e SISPI, Sistema Palermo Informatica. Lui stesso li definisce enti inutili che causano una spesa eccessiva. Palermo Ambiente è in liquidazione da 5 anni ed era nata come ATO 3 per prendere il servizio di raccolta dell'AMIA. Continua a restare in vita con 72 dipendenti che servono da vigilanti sui servizi di AMA per app. Creano una relazione, la presentano al comune e quest'ultimo interviene per eventuali sanzioni. Tutta sta roba qua costa 4 milioni di euro all'anno alla città di Palermo, no? Per avere una società che non serve, che ha 72 dipendenti che devono fare i vigilanti sui servizi di AMA per app. Una spesa che chiaramente pagano i palermitani attraverso la Tari. Situazione simile per la SISPI, Sistema Palermo Informatica, che solo di IVA costa 2 milioni di euro. Dovrebbe informatizzare i servizi del comune, resta però in attesa che i singoli settori del comune gli dicano che cosa fare, gli commissionino il lavoro. E siccome nessuno gli commissiona il lavoro, lei non va a chiedere, perché la SISPI è molto educata e non chiede, quelli non commissionano il lavoro, così costa tra IVA 2 milioni e resto 5 milioni di euro al comune di Palermo. Ma è tutto normale, tutto molto British traffic. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Focus Economia. Secondo posto della classifica, devo andare molto velocemente, cerco di essere molto inglese per non farvi arrabbiare, molti mi scrivono anche su WhatsApp al 349-238-6666, ma proprio il venerdì, sì, proprio il venerdì. Secondo posto della classifica, ci spostiamo a Napoli. Allora, complimenti alla giunta regionale. Allora, dopo che l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale di Napoli, qui non ce la faccio però a essere inglese, ha provveduto ad anestetizzare, quindi fatto annullare, la norma con la quale si impediva di procedere a distacchi, comandi e contratti a termine a beneficio dei parenti, dei consiglieri e degli amministratori regionali fino al terzo grado. Cioè c'era un divieto che diceva: tu non puoi dare consulenze e incarichi, se sei un consigliere regionale e un amministratore regionale, fino al terzo grado di parentela. Si sono fermati al secondo grado. Vabbè. Comunque, si sono confermate le indennità di funzione per gli assessori regionali e i vicepresidenti del Consiglio regionale pari al 65% dell'indennità di funzione lorda. I consiglieri, questori e segretari dell'ufficio di presidenza, così come i capigruppo del presidente delle commissioni, avranno un'indennità del 55%. I vicepresidenti e i consiglieri segretari avranno un'indennità di funzione pari al 45% dell'indennità lorda. Cosa succede? Che siccome praticamente non c'è quasi nessun consigliere regionale che non rivesta anche il ruolo di segretario o altro incarico equiparato, praticamente saranno pochissimi quelli esclusi dai benefici dell'indennità di funzione, quelli che ho appena raccontato, no? Che valgono dal 65% a metà dell'indennità lorda. Ancora, tra l'altro, tutto questo fa da presupposto al riconoscimento dello stesso tipo di emolumento per il capo dell'opposizione al Consiglio regionale. In questi giorni, e voglio dire, siamo molto solidari con loro, i consiglieri regionali della regione Campania si sono visti recapitare da Babbo Natale i nuovi telefonini ultrapiatti a traffico illimitato. Sentivamo una mancanza. C'è, va detto, chi ha preferito non ritirarlo, come l'ex governatore Stefano Caldoro e il capogruppo di Forza Italia Armando Cesaro, nonché i consiglieri del 5 Stelle. Ma il vero scandalo, diciamo, è quanto alta è l'indennità per ricoprire queste funzioni. Comunque, non devo arrabbiarmi, vado con molta calma alla prima posizione e quindi al vincitore di oggi. And the winner is... Sì, c'è stato un po' di esitazione in regia perché abbiamo cercato quella che è la base, la colonna sonora di Love Boat nella versione americana. Vi spiego perché, con molta calma. C'è un ex caserma che si chiama Complesso a Roma, logistico Pio IX, in viale Pretorio 95. Dovrebbe accogliere i mutilati e gli invalidi di guerra. Sapete chi accoglie? Dunque, nella caserma, è una caserma fatta resort, contiene 7 suite internazionali, ma prima voglio dire chi accoglie. I prezzi vanno dai 40 euro ai 7 euro a notte. Dunque, quando l'attuale ministro della difesa Roberta Pinotti era sottosegretario del governo Letta, abitava in una di queste stanze pagando 7 euro a notte, 8 euro se voleva il cambio della biancheria e le pulizie, cioè un euro di differenza, bene? La Pinotti abita altrove, ma nella caserma continuano ad abitarci 3 collaboratori. Poi alloggiano al complesso Pio IX anche Gioacchino Alfano e i suoi 3 collaboratori. Ma la lista, dice, magari motivi di sicurezza, una caserma, vabbè. Ma la lista di politici che sfrattano i militari e gli invalidi è lunga. Roberto Formigoni si è fatto assegnare, certo che c'è il vizio Formigoni degli alberghi, le cose, si è fatto assegnare una suite da 40 euro a notte. Il viceministro Nencini gli fa compagnia in una stanza simile, immagino non la stessa, ci mancherebbe. Insieme a loro anche l'ex ministro Gian Guido Folloni, ex ministro non mi ricordo di che cosa, e il presidente del Copasir Giacomo Stucchi, lì insomma almeno si giustifica per motivi di sicurezza. Poi ci sono Sabrina De Camillis, esperta per la riforma del titolo V ed ex deputata del un curriculum enorme, Giovanna Petrenga, Andrea Manciulli, PD e presidente della delegazione italiana alla NATO, tutti nella caserma Resort. Fatemi sentire un po'. 7 suite internazionali a 39,40 al giorno, 6 suite nazionali a 39,40 al giorno, 4 camere di alta rappresentanza, 9 camere matrimoniali, 5 doppie a 28,90 euro a notte, 55 camere singole a 21,90 euro a notte e 16 mini alloggi per i servizi di polizia, 100 posti auto, 9 sale ristoranti, palestra, bagno turco e 100 benessere. Modestamente, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra il 25 giugno ha scritto al Capo Ufficio Affari Generali dello Stato Maggiore dell'Esercito per chiedere di poter utilizzare la struttura, visto che dovrebbe accogliere i mutilati e gli invalidi di guerra, e ha detto no, attenzione, la priorità va ai politici. Non è escluso l'uso da parte dell'Associazione Nazionale Mutilati, ma non è prioritario. Dai, siamo a Natale, tutti contenti, avete visto che bravo che sono stato? Adesso andiamo al GR24, però ringrazio e saluto per averci raggiunto in collegamento l'ospite che ha la funzione enorme in questo caso di tirarci sul morale, Giuseppe Casale, responsabile commerciale di Niteco, che nasce a Monte Masola, provincia di Taranto. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Sono particolarmente contento che poi siate nati nella provincia di Taranto, che seguiamo con interesse anche, ahimè, per il disastro dell'Ilva. Come occupazione, dopo il GR24 ci tiri sul morale in vista del Natale. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Alle 18:09 minuti ritorno a Focus Economia con voi, come sempre, Sebastiano Berisoni. Allora, Giuseppe Casale, responsabile commerciale di Niteco. Cosa fa Niteco, dove nasce e quando? Niteco è una società di progettazione e produzione di lampade a LED. Nasce nel 2011 in provincia di Taranto. Bene. Montemesola, nell'esattezza. E nasce dalla volontà di tre ingegneri che, tramite lo spin-off universitario del Salento... Quindi vi ha dato una mano all'Università del Salento, se ho ben capito? Beh, all'inizio sì. È importante questo. Cioè... Beh, questa è una cosa importantissima, perché di fatto poi l'esperienza che ai tre ingegneri fondatori della Niteco ha dato l'Università del Salento, quindi parliamo del 2005, perché da... quegli anni che insomma in qualche modo risale la tecnologia e l'esperienza, sì. Li ha portati poi sul mercato dell'illuminazione stradale e poi pian pianino dell'illuminazione industriale per grandi aree, grazie alla spinta finanziaria della Finsea Holding, che è una società pugliese a tutti gli effetti, molto importante, ma soprattutto per volontà e perché ci hanno creduto questi tre ragazzi, i due soci fondatori, sostanzialmente i due capi. Quanti gli altri sono? Giuseppe Vendramin, Miniello Petrarchi e Alessandro Deodati. Quanti anni avete generalmente in media? Noi siamo l'unico ad essere un po' più adulto, è Giuseppe Vendramin, che ha 38 anni. Tutti gli altri siamo classe 82, 81, 82, quindi insomma. Invidia. Senta, quanto fatturate? Quest'anno chiuderemo a 2,5 milioni. Una leggera crescita rispetto all'anno scorso, tenendo presente che la società è nata praticamente nel 2011, quindi a distanza di pochissimo tempo contiamo di raggiungere il break even point del pareggio esatto, a cavallo entro il primo semestre dell'anno prossimo, quindi la fase di startup sostanzialmente è finita, però di fatto poi ci siamo quasi, ecco, siamo quasi andati al regime. Questa è una grandissima vittoria per noi e una grande soddisfazione, perché di fatto, oltre ad affrontare un mercato modernissimo che è quello dell'illuminazione a LED, quindi grandissimo trend in questo momento, bolla economica, che comunque in qualche modo associa parecchie nazioni dell'Europa, ma anche del Medio Oriente, dove tra l'altro siamo anche protagonisti. Ecco, voi esportate e quanti siete? Sono due domande in realtà. Allora, noi in società siamo 15 dipendenti. Persone, dipendenti, oltre all'indotto esterno che è fatto da commerciali piuttosto che insomma collaboratori vari. All'estero ci facciamo su diverse nazioni. Mi dica la quota, io devo andare anche con la borsa, la quota di esportazione per favore, Casale. Noi siamo intorno al 12%. Ecco, l'ultima domanda che ho per lei, in realtà vi ha aiutato l'Università del Salento, il finanziamento bancario l'avete avuto? No, non abbiamo avuto niente di tutto ciò. E chi vi ha dato una mano con i soldi? Finsea Holding, quindi questi due soci che ci hanno in qualche modo, hanno creduto in noi e ci hanno dato una forte mano ad affrontare. Quanto ha messo inizialmente Finsea Holding? Pochissimo rispetto a quello che di fatto poi noi facciamo, stiamo parlando di 1,5 milioni. Oh, bocca al lupo a lei, ai tre dottorandi, ormai dottorandi, ingegneri dell'Università di Salento, ai 15 dipendenti, buon fine settimana, grazie, perché questo ci serve un attimo per risollevare l'umore dopo la poco invidiabile classifica. Grazie anche, appunto, in bocca al lupo a tutti i dipendenti di Niteco. Prima di arrivare al presidente De Rita, che è già in attesa, vi do rapidamente la borsa. Oggi la giornata più 0,12%, non è gran cosa, meno 0,30 a Parigi, meno 0,30 a Francoforte, meno 0,60 a Londra, più 1,40 in questo momento il Dow Jones. La vera notizia riguarda il petrolio, l'abbiamo dato in apertura, che è sceso anche sotto i $40 al barile dopo l'annuncio dell'OPEC di una produzione sostanzialmente invariata. Per quello che riguarda i titoli, Hughes Net-a-Porter più 3% come Unipol, l'1,80 lo guadagna Mediaset e l'1,60 Finmeccanica, l'1,5 è il rialzo di A2A e del Banco Popolare di Unipol Sai, Telecom Italia più 1,40%, Pop Milano più 1,20% come CNH Industria, l'1,1 lo guadagnano, l'hanno guadagnato sia Prismian che Intesa San Paolo. Monte dei Paschi meno 2,70, Tenaris meno 2,2%, Saipem meno 1,70%, chiaramente oggi male tutti i titoli petroliferi, Eni è arrivata a perdere anche di più, poi ha recuperato, chiude a un meno 1,40%, anche Saipem perdeva, è arrivata a perdere fino al 3,5%, un petrolio che è sceso a $39,90 al barile. Tra l'altro segnalo tra i migliori e i peggiori in assoluto, molto positiva la centrale del latte di Torino più 20% dopo che è stata ufficializzata la fusione con la centrale del latte di Firenze. Sarà il terzo polo in Italia, tutto si realizzerà entro i primi 6 mesi del 2016. Poi Safebag più 11%, Industria e Innovazione più 8,80, Damiani più 5,70, fronte opposto Dada meno 7,80 e Seat Pagine Gialle meno 5,50%. Come anche già anticipato, è arrivata la stima dell'Istat per quello che riguarda la crescita quest'anno, faremo più 0,7%. Questo include anche la variazione del quarto trimestre, con la previsione sul quarto trimestre, quindi non più 0,9 come stima il governo, non più 1% come si auspicava Renzi, ma più 0,7 secondo la previsione, che potrebbe dire che forse si potrebbe fare più 0,8, ma il rischio è anche di un rallentamento. Comunque 0,7%, così tagliamo la testa al toro con tutte le varie indiscrezioni su quanto, o botte e risposte su quanto crescerà la nostra economia, lo dice l'Istat. Traffico e poi il 49esimo rapporto del Censis sulla situazione sociale del paese con il presidente Giuseppe De Rita. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. vi presenta Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia. L'anno scorso il titolo del rapporto Censis fu una società satura dal capitale inagito con rischio deflazione delle aspettative. Nel 2013 un'Italia sciapa e malcontenta che non aspirava più a nulla e si trascinava tra furbizia generalizzata e immoralismo diffuso. Nel 2012 Italia più povera e arrabbiata, vado appunto a ritroso. Quest'anno, che è il 49esimo rapporto del Censis, quindi quasi 50 anni che il Censis va a leggere i mutamenti sociali del paese, il titolo, se ho ben capito, potrebbe essere un letargo collettivo, ma con l'emergere dell'inventiva. Chiedo conferma al presidente del Censis, Giuseppe De Rita, buonasera. Buonasera a lei. Quindi è un letargo esistenziale collettivo e il prevalere del giorno per giorno. Questo sembra abbastanza in linea con quanto dicevate nel 2013, Italia sciapa e malcontenta, che non aspira più a nulla, si trascina tra furbizia generalizzata. Cosa c'è di nuovo però? Ma c'è qualcosa di vecchio e qualcosa di nuovo. Il di vecchio è che questa società, apparentemente tutta connessa sul web con ricchezza di connessioni, alla fine è una società sconnessa. È una società sconnessa perché è troppo molecolare, troppo individualistica, non fa gruppo, non fa comunità, e quindi in qualche modo questa sconnessione crea una solitudine personale che diventa una solitudine vuota, che diventa una incapacità di pensare il futuro, che diventa una incapacità di investire. Quindi è tutto securizzato, perché una società sconnessa e tutta individualistica si protegge, e la maggiore protezione la vediamo nell'aumento incredibile del risparmio in questi ultimi 2 anni, specialmente quest'ultimo. Cioè la gente ha paura del futuro, vuole essere tranquilla che se c'è qualche problema un po' di soldi ce l'ha da parte, e continua a fare risparmio, ma in maniera anche per certi versi stravagante, perché per esempio aumentano le polizze vita, cosa che forse mia madre ha fatto una quarantina, una cinquantina d'anni fa, ma nessuno faceva più polizze, invece adesso si fanno polizze, aumenta il risparmio sommerso, cioè il risparmio cash tenuto nel cassetto della scrivania a destra, perché se succede qualcosa apro e ho i soldi a disposizione. E tutto questo fa sì che ci sia questa sorta di letargo, e questa, perché viene da questa sconnessione comune, da questa incapacità di fare gruppo, da questa incapacità di sentire il noi. Vince sempre l'io da questo punto di vista, anche rispetto al fenomeno degli ultimi mesi, la guerra, è la reazione fondamentale: io che c'entro con la guerra, se pensino altri. E questo è questa che è, diciamo così, è la cosa vecchia, però questa dimensione qui ha avuto un'aggressione rapida e un'aggressione lenta. Cioè, da una parte l'aggressione rapida è stata quella del governo, quella, se vogliamo, anche di Renzi, cioè sta cosa non può durare, bisogna cambiare un verso, e quindi l'aggressione è stata il rilancio del primato della politica, il rilancio del decisionismo, il rilancio delle riforme, il rilancio degli interventi a forte impatto d'opinione pubblica, dagli 80 euro all'ultima legge, perché il governo ha deciso una specie di cura forte per uscire dal letargo. Se, purtroppo il cavallo non beve, come si diceva quando io ho cominciato a lavorare, il cavallo non beve, perché invece di comprare, invece di investire, invece di farsi un futuro, la gente preferisce star lì. Se lei pensa sul piano economico anche le difficoltà di Draghi a livello europeo, lui continua a dire io do credito, e il cavallo non beve. È lì il problema cruciale, che sembra economico, che invece è sociologico, cioè è una società che in qualche modo sta nel suo recinto, ecco. Come diciamo noi, è certamente in letargo, ma forse più che in letargo, in un limbo. Noi abbiamo usato una bellissima citazione di Filippo Turati, si figura un po', che diceva: l'italico limbo, dove tutto è mezzo, ci abbiamo mezzi partiti, mezze istituzioni, mezzi sindacati, mezzi imprenditori, ci abbiamo pure mezzi cittadini, cioè è questo limbo che in qualche modo spaventa, perché c'è questa sorta di incapacità di reagire a uno stimolo esterno, sia quello di Draghi e Francoforte, sia quello di Renzi sul Rumo. Ecco, ma da questo punto di vista, però, per un attimo, includendo la variabile politica, lei sembrerebbe dire che se il problema è anche, non è tanto economico, ma è appunto di attese, aspettative, di fiducia, fa bene il Presidente del Consiglio cercare la variabile della fiducia su tutte, anche a costo, diciamo, delle volte sembrare eccessivamente ottimista? Cioè, se la variabile non è di scelta solo economica, ma è di fiducia nel futuro, di credibilità. La cosa fondamentale che farei anch'io, se gli elementi tecnici, l'incentivo, i soldi non funzionano, tu devi far funzionare una bolla d'opinione. Tu devi creare una bolla d'opinione: stiamo uscendo dalla crisi, stiamo facendo la ripresa è partita. Questa cosa qui è funzionale a quella ripresa di fiducia di cui diceva lei, perché se non fai anche qui bolla d'opinione, anche tutto quello che hai fatto prima, gli incentivi, i soldi, gli 80 euro, tutti i 500 euro per i giovani dell'ultima legge di stabilità non servono, perché hai bisogno innanzitutto di una chimica interna, di una chimica collettiva che si rimette in moto. E naturalmente oggi come oggi l'unica possibilità è che fai opinione, fai la bolla d'opinione, questo in qualche modo, poi può darsi che poi, speriamo di no, che poi si paghi, perché la bolla d'opinione, le bolle in qualche modo non durano più di tanto. Forse Renzi spera che arrivi almeno al 18 alle prossime elezioni la bolla, però questa era una strategia assolutamente doverosa nel momento in cui il cavallo non beve, ecco. E questo per quello che riguarda il clima complessivo da questo punto di vista. Per quello che riguarda invece alcuni elementi che voi mettete in evidenza, tralascio la parte più economica, il patrimonio più economico in senso di numeri, il patrimonio delle famiglie che è quasi doppio del debito italiano, una ripresa del mattone che ha ricominciato a tirare risorse e il boom delle richieste in mutui, anche se molte sono rinegoziazioni, però sono surge, più 94%, e i consumi che anche voi notate sono tornati a crescere per la prima volta dopo 5 anni, anche se questo però ce lo racconta l'Istat da mesi e settimane, anche se la capacità, il 20% delle famiglie ha un reddito che non basta, che non riesce a coprire tutte le spese, c'è però una la percentuale di famiglie che ha aumentato la propria capacità di spesa, che è un po' salita dal ed è superiore a quella che l'hanno ridotta, il 25% l'ha aumentata e il 21% l'ha ridotta. Voi state notate però che a livello proprio di indagine sociologica, per 4 italiani su 10 la sanità sta peggiorando, e vorrei un commento su questo. E poi arriviamo ai nuovi stili di consumo, oltre che ai soldi a disposizione. La sanità, Presidente De Rita. Ma la sanità dal punto di vista tecnico, organizzativo, non è così in crisi. C'è una crisi reputazionale della sanità italiana. Quindi i cittadini ritengono che la sanità non funzioni. Perché? Perché la reputazione collettiva, magari data da una lista d'attesa troppo lunga in un ospedale, magari fatta da un minimo di mala sanità in un altro ospedale, ha portato il cittadino a non fidarsi, tant'è vero che il corrispettivo è che aumenta la spesa privata, le cose me le pago da solo, l'analisi me la faccio da sola, la TAC se posso me la pago io, e questo lo ritrovo anche nella risposta dicendo ma voi che cosa volete? Cioè, meno tasse pur di, anche a costo di avere meno servizi, il che significa che c'è una propensione a spendere in proprio e quindi ad avere meno tasse, perché se no, e perché tutta la macchina pubblica ha questo difetto reputazionale che non viene risolto. Sì, non viene risolto, Delita, però anche perché, come ricordavamo prima, insomma, la macchina pubblica, adesso noi abbiamo una classifica poco invidiabile, però c'è un danno reputazionale, un danno d'immagine che si crea con cose concrete. Però adesso io vado veramente a conclusione del programma, ci sono altri due aspetti che affronteremo con lei lunedì prossimo eventualmente, che riguardavano elementi meno economici, più sociologici, come cambiano le città, gli esercizi commerciali. Intanto ringrazio il presidente del Censis Giuseppe De Rita, ringrazio come sempre Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione e in studio anche questa settimana, Filippo Aureggi in regia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di un buon fine settimana, noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.